Giovanni Minoli, il faccia a faccia. Luca Zaia, 46 anni, veneto, sposato senza figli, laurea in veterinaria nel 98, è il più giovane presidente di provincia dal 2008 al 2010, è ministro per le politiche agricole nel quarto governo Berlusconi, dall'aprile del 2010 è presidente della regione Veneto, il più votato e il più gradito fra tutti i presidenti alla pari col toscano Rossi. Di lui si ipotizza un futuro da leader nazionale, lui nega, ma intanto dice ai suoi dirigenti: il programma da presidente lo voglio realizzare in 3 anni. La sanità è il suo fiore all'occhiello, però la sua ultima battaglia persa è stata la raccolta di fondi per il referendum sull'indipendenza del Veneto. Allora, Presidente, avete restituito i fondi raccolti, un buco nell'acqua. Insomma. Buongiorno, non un buco nell'acqua, era previsto un budget di 14 milioni di euro, non sono stati raggiunti. E dopodiché, visto e considerato che il referendum è stato bocciato in questa prima fase, vabbè, li abbiamo restituiti. Senta, lei dice che farete il referendum sull'autonomia, quando? Beh, la Corte Costituzionale ce lo autorizza, per cui è un fatto possibile, democratico, e ovviamente stiamo preparando il quesito. Senta, lei dice che potrebbe essere dirompente. Dirompente perché? Beh, è un bel esercizio di democrazia chiedere ai veneti, perché non lo decide il loro presidente, ma lo decidono i veneti, se vogliono più autonomia oppure no. Senta, ma lei davvero crede che i veneti siano un popolo diverso? Io penso proprio di sì, anche perché abbiamo oltre 1100 anni di storia di Repubblica Veneta, anche perché in Veneto voglio ricordare che l'identità è un qualcosa di forte. 7 persone su 10 parlano e pensano in Veneto, tanto per fare un esempio. La Catalogna è il vostro punto di riferimento? Diciamo che abbiamo molti aspetti comuni in comune con la Catalogna, e anche quello di natura giuridica e di rapporto rispetto alla Corte Costituzionale e quindi rispetto alla Costituzione. Senta, Presidente Zaia, ma Salvini è d'accordo con lei su questo punto? Beh, assolutamente sì. Nel senso, cioè, ne avete parlato? Ma ne abbiamo parlato, però è altrettanto vero che la Lega poi, da autonomista e federalista, deve riconoscere l'autonomia di territorio. Ah, ma per chi come Salvini vuole diventare leader nazionale, come fa a spiegare al resto d'Italia che il Veneto se ne va? Beh, se il Veneto se ne va dipende dai veneti e quindi non dipende da un partito, e il fatto che se ne vada, se dovesse fare il referendum, lo fa perché si può fare e quindi è tutto legale. Vabbè, ma legale sì, però insomma politicamente è complicato da spiegare. Senta, a proposito di cose nuove, che effetto le ha fatto la piazza di Bologna con Salvini, Meloni e Berlusconi? Ma un grande effetto, perché era strapiena, piena di ragazzi soprattutto, le posso garantire, famiglie, bambini e tanti tanti giovani. Questo è il nostro futuro. Senta, ma Berlusconi è ancora leader nazionale secondo lei o no? Beh, per me in quella piazza c'era solo leader, che era Salvini. Quindi Salvini leader del centrodestra. Beh, ha tutti i titoli per esserlo, anche perché le elezioni del futuro ovviamente vanno verso le leadership. Senta, lascia andare via il Veneto, ma è leader nazionale. Vabbè, però Salvini dice che il leader può essere Zaia, che può fare tutto. Allora? No, guardi, io mi occupo della regione e arriverò fino alla fine. Non è assolutamente vero che ho detto i miei lavorate vero. Per 3 anni, qualcuno ha l'ho fatto... l'ho letto. Ma sì, c'è qualche giornalista che ha fatto confusione, perché noi facciamo contratti a 3 anni come previsto dal contratto per il lavoro. Insomma, quindi si può voler staccare il Veneto dall'Italia e essere forse candidato da altri a leader del paese, perché se la candidano poi il problema è il Veneto sceglierà il suo futuro e lo è... Ma parlo di lei qua. Rispetto a me, dico che i veneti scelgono il futuro del Veneto. Per quanto mi riguarda, io finisco questo mandato. Sì, ma se invece tutti insieme decidessero che tocca a lei, lei cosa fa? Deve accettare? No, non accetterebbe. E se non lei, chi allora? Beh, io penso che per le politiche Matteo Salvini abbia assolutamente le carte in regola per affrontare questa avventura. Leader nazionale? Certo. Non potrebbe esserci un papa straniero? Beh, il papa straniero non lo scegliamo noi, e neanche i cittadini. Senta, Marchini per esempio no? Ma Marchini è una partita che io non conosco. Peraltro le dinamiche di Roma le dirò che non è che mi attraggono molto. Non tanto, ma lo vedrebbe come sindaco con una lista civica appoggiato da tutto il centrodestra? Eh? Direi che sindaco se lo scelgono i romani. Ci saranno delle primarie, ci sarà qualcosa, no? Sì. Ma meglio lui o la Meloni, non sa? Non glielo so dire, anche perché non, fra l'altro lui non lo conosco molto bene. Ah, vabbè. Senta, mentre lei vuole staccare il Veneto dall'Italia, il terrorismo fa strage purtroppo. A Parigi, purtroppo, e dichiara una nuova forma di guerra. Bisogna rispondere bombardando? Questa è una guerra non convenzionale. Non posso non ricordare l'unica vittima italiana, che Valeria Solesinco, una veneta, una ragazza veneta. E direi che è fondamentale comunque non abbassare la guardia. Ma bisogna rispondere bombardando come chiede Hollande? Beh, Hollande lo sta già facendo. Sì, ma chiede la solidarietà di tutti. Beh, direi che una forza internazionale è comunque l'unico obiettivo, mettere assieme tutti i paesi. Diciamo che l'Europa al momento ne esce molto debole da questa partita. E quindi bombardare potrebbe riunificare l'Europa? No, il bombardamento non riunifica mai nessuno. Beh, se vanno insieme. Il bombardamento è un atto di sangue che dovremmo sempre evitare. La verità è che in questo momento siamo in grossa difficoltà. Cioè non c'è leadership in Europa? No, poca. Assolutamente no. Non c'è una dimensione politica. Ma quella del Medio Oriente è soprattutto però una guerra civile tra sciiti e sunniti. Quali sono gli interessi che hanno spinto l'Occidente a infilarsi in mezzo? Ma guardi, si leggono molte letture variegate su tutte queste vicende geopolitiche. Io penso fondamentalmente che tutto debba partire dal rispetto. Con un rispetto che ormai non c'è più, e della condivisione anche dell'identità delle singole realtà. Ma alla fine, Presidente Zaia, chi ci guadagna in queste guerre? Chi vende le armi? Beh, sicuramente i trafficanti d'armi, sicuramente chi estrae il petrolio, visto e considerato che comunque quelle zone, guarda caso, non sono poi così povere, al di là di queste immagini televisive che abbiamo, sono ricchissime. E penso che questa sia un'area che geopoliticamente è sempre stata un'area infocata. Senta però, Presidente Zaia, si può fare contemporaneamente la guerra fredda alla Russia e quella calda all'ISIS? Beh, direi che rispetto alla Russia dobbiamo modificare il nostro atteggiamento, prima cosa fondamentale. Seconda cosa fondamentale è bene anche chiarire le diverse posizioni, visto che all'interno del G20, dalle informazioni che abbiamo, qualcuno anche sostiene questi terroristi, no? Direttamente e indirettamente. Appunto. Senta, gli Stati Uniti appoggiano l'Arabia Saudita, che finanzia l'ISIS, è uno dei finanziatori. Contemporaneamente fa la guerra all'ISIS, ma è una contraddizione che può resistere questa della politica estera americana? Beh, questa è la politica del domino, no? Si sa da dove si parte, non si sa dove si arriva. La verità è che molti equilibri vanno ripesati. E il tema che, ad esempio, sia debolissima la forza internazionale, che la comunità internazionale qui non abbia voce, dà una dimostrazione di quanto frammentato sia il fronte. Ecco, ma quindi l'Europa senza leader adeguati vuol dire che neanche la Merkel è un leader adeguato, no? No, io direi proprio, anche se in queste ore obiettivamente la Merkel non è che si è sentita molto, no. E direi che la dimensione politica europea oggi non proprio c'è. Manca. Senta, lei dice, Stati Uniti d'Europa non esistono. Assolutamente. Lei dice chiudiamo le frontiere, mandiamo l'esercito per strada. Per fare cosa? Beh, la visione del buon padre di famiglia lo si leggeva nei libri di economia, nel senso che io penso che sia fondamentale chiudere le frontiere, controllare, quindi essere ossessivi nei controlli rispetto ai controlli da parte di chi entra, e ovviamente controllare anche tutti i cittadini che sono qui. Senta, ma Schengen ha fallito, quindi diciamo. Beh, davanti a questi fatti sì. E cioè bisogna cancellare Schengen? No, io non dico di cancellare Schengen. Beh, sicuramente sospenderlo e rivedere le modalità. Ah, qui se ha fallito si toglie. Sì, il fallimento di Schengen viene fuori nel momento in cui tu non sai più la storia dei cittadini che ti trovi di fronte. Abbiamo capito che Schengen è sostanzialmente in questo momento un colabrodo. L'idea che sottende Schengen è una grande idea, però bisogna anche gestire meglio. Senta, Presidente, non pensa che così si può ridurre la paura, sì, con questo controllo che lei dice, ma non si gestisce politicamente il fenomeno? Beh, noi dobbiamo comunque affidarci agli esperti, ai professionisti dell'ordine pubblico, della sicurezza. A noi spetta però sollevare anche il grido d'allarme che lancia il popolo. Che hanno dimostrato però i professionisti dell'antiterrorismo e dell'intelligence, hanno dimostrato in tutto l'Occidente di essere dei colabrodo. Un colabrodo fino a un certo punto, anche perché mi rendo conto che siamo davanti a una guerra non convenzionale, certo, non è quella degli attacchi aerei, no. dei carri armati, ma è quella dei kamikaze, che è l'ultima generazione, cioè di chi è disposto a immolarsi per un'idea. Ma se toccasse a lei essere Presidente del Consiglio, che non vuole, lo so, l'ho capito, ma che cosa farebbe? Ma guardi, la chiusura delle frontiere potrebbe essere sicuramente la prima soluzione, e dopodiché dedicare tutte le forze di polizia in maniera integrata, a partire dalle forze di polizia comunale e arrivare ai servizi, in maniera tale che tutti si lavori per un obiettivo. Lei sa che i servizi europei collaborano poco fra di loro. Ma sì, ho letto anche di più, che addirittura le persone segnalate in uno stato non vengono poi risegnalate in un altro stato. Usavo un eufemismo. E abbiamo anche capito che ci sono persone che girano con passaporti che non sono reali. Esatto. Addirittura il passaporto del siriano ha un'altra copia di passaporto, cambia solo la foto in un'altra parte. Ne hanno tanti, come i brigatisti. Senta, pensando alle difficoltà di conservare la lucidità in questi casi, il Papa domenica ha detto parole chiare. Voglio riaffermare con vigore che la strada della violenza e dell'odio non risolve i problemi dell'umanità e che utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia. Ecco, questo dunque, chi usa invano il nome di Dio, dice il Papa, bestemmia. Questo dovrebbe aiutare a non confondere chi prega con chi spara. Assolutamente, sono parole sottoscrivibili. Cioè, il Papa condanna la violenza e l'uso del nome di Dio per la violenza. E quindi è una condanna chiara, quindi e palese. Quindi bisogna fare attenzione a non fare di tutta erba un fascio. Ma non bisogna generalizzare. Ma lei personalmente, nella sua coscienza, ci riesce facilmente? Ma, guardi, io penso che chi ha una professione di fede diversa dalla mia non è assolutamente sul banco degli imputati, islamici compresi. Il tema è che non possiamo accettare il terrorismo, l'estremismo islamico che vuole reintrodurre l'estremismo, ma che usa la parola di Dio. Sì, che vuole reintrodurre la Sharia come fatto obbligatorio nei territori. Senta, ma come prova a trasmettere questa sua convinzione nella sua azione di comando, oltre che invocando la chiusura delle frontiere? Ma guardi, se lei venisse in Veneto troverebbe le comunità islamiche perfettamente integrate. Il nostro rappresentante delle comunità islamiche è stato, penso, tra i primi in Italia a condannare i fatti di Parigi. Sì. Poi, tra tanto vero che se c'è qualche cellula dormiente, questa deve essere scoperta. Senta, ma con la necessità di restare uniti di cui parliamo, si possono continuare a tenere le sanzioni all'Unione Sovietica e alla Russia? No, assolutamente bisogna no. Bisogna togliere le sanzioni all'Unione Sovietica. Senta, Presidente Zia, torniamo qui in Italia. Salvini dice la Lega può governare perché ha una straordinaria classe dirigente, vero? Assolutamente sì. Senta, ma non poteva dire il contrario. Senta, dice anche Salvini che ci sono almeno 10 sindaci in Veneto che potrebbero tranquillamente fare ministri. Conferma? Glielo confermo, le dirò che ho anche un bel gruppo, sono 24 consiglieri regionali che sono assolutamente ragazzi e ragazze in gamba. In gamba da fare i ministri? Ma sì, guardi, l'ho fatto io, quindi lo può fare chiunque. Mi fa dei nomi? È come se lei mi chiedesse se voglio più bene alla mamma o al papà. A chi vuole più bene, alla mamma o al papà? Alla mamma e al papà, e al papà e alla mamma. Senta, ma per esempio, Bonanno, che va in televisione a mostrare la pistola per risolvere i problemi, è un esempio positivo di classe dirigente? Guardi, io non l'avrei fatto. Ma lei è contrario o favorevole al bonus pistola? Io penso che non, il futuro dei nostri cittadini non sia quello di riempire i comodini delle camere di pistole e porto d'armi, ma sia quello di avere forze di polizia con carta bianca ad agire e leggi più severe. E Gioia Formaggio, sindaco vicentino, che propone la tassa sui gay per aiutare le famiglie, e al governo anche lui? No, guardi, parla con uno che ce l'ha su con l'omofobia, per cui per me non esiste problema gay perché non sono un problema, punto. Non c'è altro da aggiungere. Senta, Presidente Zai, lei in Veneto, l'abbiamo detto, leader assoluto, supervotato, però molti suoi colleghi pensano che le ragioni siano il male dell'Italia, le regioni. Sì. Senta cosa ci ha detto Caldoro, ex presidente della campagna. Il momento di superare l'attuale regionalismo e di sciogliere queste regioni. Costruiamo delle macro regioni che facciano solo programmazione, come giusto che sia, e lasciamo allo Stato i suoi poteri centrali sull'energia, le infrastrutture, quelle, e anche la sanità, dico io, che oggi hanno le regioni, e poi il resto lo fanno i comuni. Però serve un ente di programmazione intermedio. Quanti enti? Ma io ho fatto una proposta, Massimo, io dico Massimo 6, di 10 milioni di abitanti, che abbiano solamente competenze di programmazione e pianificazione, in poche parole che non gestiscano risorse. Queste cose le ha dette prima, appena eletto, non dopo che ha perso le elezioni. Ma è un mio discepolo rispetto alla fusione della regione. Quindi benvenuto. Vanno sciolte o non le regioni? Guardi, le regioni, casomai andiamo a sciogliere quelle che governano male. Lei venga a chiedere ai veneti se vogliono una sanità gestita da Venezia. Allora è d'accordo o no con Caldoro? Sulla fusione delle regioni sì. Quante macro regioni? Ma guardi, io penso che su 60 milioni di abitanti, quando ne abbiamo dalle 5, 6, 7 sia sufficiente. Però le aggiungo che il problema sono alcune regioni che non sanno assolutamente gestire. E infatti con le regioni comunque le spese sono tutte lievitate. Allora... Non con tutte le regioni, mi perdoni. perché io curo bene i cittadini, altre regioni fanno debiti nella sanità e esportano gli ammalati. Parliamo di sanità. Ecco, per quanto riguarda la sanità, anche il ministro Lorenzin è drastico rispetto alla sanità. Questa sanità delegata alle regioni è stato un errore fatale. Per me sì. Fatale proprio. Per me fatale. Fatale perché alla fine il risultato lo vediamo. Ecco, ma è irrimediabile. Dobbiamo rassegnarci a questo disastro, punto. Non ci si può rassegnare. Ecco, allora... Una parte è stata cambiata dalla Costituzione nella riforma che è passata. Beh, vabbè, poco, giorno. poco. Però già si è ripassato un concetto di riaccendimento. Non è neanche il bicchiere mezzo pieno, è proprio appena Il patto della salute sancisce un cambiamento di orizzonte molto forte, perché di fatto c'è un passaggio. Lei si sente di dire basta sanità alle regioni, è stato un errore, eh? Io lo dico sempre, lo sono anche un po' isolata, per me è stato un grande errore questa riforma, ora però va gestita. Beh, durissima, precisa, determinata. Lo venga a dire i veneti, facciamo, io l'ho detto, lancio un'idea, facciamo un referendum, volete voi veneti essere gestiti da Venezia per la sanità o da Roma, vediamo chi vince. Ma inviti la Lorenzina a Venezia a dire questa cosa, vediamo. Parla l'esponente di un governo o di una maggioranza di governo che governa l'Italia dal novembre 2011 e ancora tutt'oggi non ha applicato i costi standard. Vuol dire che da me il pasto in ospedale costa 6,50 euro, in giro per l'Italia arriva a costare 60-80 euro. Senta, è in questo modo che il Veneto può servire, come dice lei, a modello per l'Italia? Sì, non solo il Veneto, la Lombardia, la Toscana, l'Emilia, ci sono molte regioni che sono in gamba e gestiscono bene i fondi. Cioè sganciamo il sud? Eh? Diciamo che i parametri di queste regioni sono migliori di quelli del Ministero della Salute e dei Ministeri a Roma. Quindi dice sganciamo il sud? No, io non dico sganciamo i ministeri. Il sud. Diamo modo al sud di rinfrancarsi e per affrancarsi il sud non può che avere i costi standard, cioè capire quali sono i veri costi reali aziendali. Ma bisogna cominciare con l'abolire le ragioni di statuto speciale? Guardi, io non sono contro l'autonomia degli altri, sono perché tutti abbiano la loro autonomia. È quasi una frase dei Einaudi questa, del 48. Senta, lei dice che con i costi standard appunto... si risparmierebbero 33 miliardi l'anno, certo, applicando i vostri criteri di gestione. E allora chi non lo vuole? Beh, è ovvio, il governo non lo vuole, perché se tu obblighi tutti ad essere virtuosi, obblighi le cicale a lavorare d'estate e non a star lì a cantare sugli alberi, finisce che qualcuno si incazza. E chi è che si incazza esattamente? La maggioranza di governo che manda a casa il governo. Senta, Presidente Zaia, arrivano le elezioni, però né il centrodestra né la Lega ha scelto il nome del candidato sindaco a Milano. Lei ne ha uno in testa? No, assolutamente no. Noi siamo ci avrà un'idea. Siamo talmente federalisti che ognuno pensa a casa sua. No, però ogni tanto deve rispondere. No, guardi, non ne ho la più pallida idea. L'origine democristiana emerge. No, io non ho origini democristiane, no. Si sbaglia. Ah, va bene. Però allora mi dica chi è il suo candidato a Milano. So per certo che comunque noi siamo disponibili alle primarie, quindi ad affrontare anche il tema delle primarie. Questo per cui le do questa risposta. Chi le piacerebbe che corresse alle primarie? No, guardi, non ho la più pallida idea. Salvini? Si fidi, se mi chiede del Veneto le dico tutto quello che vuole. Salvini? Ma Salvini deciderà cosa fare da grande ed è maggiorenne vaccinato per decidere. Senta, Berlusconi, sindaco di Milano, gli piacerebbe? Non so neanche se Berlusconi si candidi. Ah, beh, questo lo so, non lo so neanch'io. Non lo so, chiesto. Non so la più pallida idea. Sento, lei ha detto che se dovesse fare un processo a Renzi avrebbe milioni di testimoni. Chi soprattutto? Guardi, questo non l'ho mai detto, almeno non ricordo, però le rispondo comunque. Penso che i testimoni siano i dati di bilancio, il fatto che comunque le cicale vengono premiate, le formiche no, che Caino viene trattato bene ed Abele no. Cioè il problema è che Caino Abele me lo spiega sto. Ma sì, lei dice che la legge di stabilità appunto è la partita della virtuosità, in tutte le buone famiglie si dà la paghetta a chi si comporta bene e studia. Qui da noi non funziona così. Senta, ma non c'è niente che le piaccia di questa legge di stabilità? Guarda, la legge di stabilità al momento mette in grave difficoltà le regioni. Non voglio stare qui a fare il lobbista o il sindacalista delle regioni, però le dico, da regione virtuosa, le dico che da qui a questo passo abbiamo grossi problemi. Allora, diciamo, mettiamo al contrario, che cosa le piace della legge di stabilità? Staremo a vedere le norme che usciranno rispetto al tema delle imprese, quindi a tutto il tema della fiscalità. Ma sulla casa è d'accordo? Beh, l'eliminazione dell'IMU assolutamente sono d'accordo. E 3.000 euro? Ma mi lasci anche dire che l'IMU l'ha applicata a questo governo, cioè che l'ha applicata a questa d'accordo. Maggioranza. Vabbè, l'ha messa e l'ha tolta. Vabbè, sente, varrebbe la pena di ricordarlo anche ogni tanto. Senta, e i 3.000 euro? La partita dei 3.000 euro, ma si farà. punto di domanda. Non lo so, ma se lei è favorevole a che si faccia? Ma io lasciare libertà, cioè in un paese libertà, però bisogna stabilire. Un paese libero non può avere 1000 euro di spesa per il quindi contratto. È favorevole a 3000 euro. Sì. Senta, con Renzi aveva un buon feeling evaporato? No, no, io ce l'ho, cioè c'ho un buon rapporto, però è altrettanto vero che devo difendere gli interessi della mia regione. Senta, Ampolle, Dio Po, miti celtici, parlamenti pagani, quella lega è finita per sempre? Beh, lei mi ha mai visto? Non lo so, non l'ho seguita tutti i giorni. No, nel senso che penso che questa faccia parte dell'aspetto folcloristico. Poi ci sono amministratori, ci sono progetti, ci sono programmi. Senta, ma quanto resta di Bossi nella Lega di oggi? Beh, resta l'idea, resta la presenza di un presidente onorario, resta una storia. Anche gli vuol bene a Bossi lei? Assolutamente, sì. Ricordiamoci che Bossi comunque è stato la storia del partito. Ah, non c'è dubbio. Senta, adesso c'è Salvini segretario. Lei preferiva il Maroni dei Barbari Sognanti? Torniamo alla mamma e al papà. Ah, siamo sempre mamma e papà lì, mamma mia che diplomatico. Uno dei protagonisti di Bologna, Giorgia Meloni, qui a Mixer ha detto che abolire il finanziamento pubblico dei partiti è stata una cattiva idea. Lei è d'accordo? No, io non sono d'accordo. E glielo dice una persona che nel 2010, nel 2015 ha fatto due campagne regionali con l'autofinanziamento. Ci ho chiesto ai candidati che non dovevano farsi finanziare dai privati di autofinanziarsi. Lo si può fare. Però la Meloni dice che senza i soldi pubblici la politica rischia di finire nelle mani delle lobby come in America sostanzialmente. Questo è un rischio concreto. Però altrettanto è vero che chi si candida deve autofinanziarsi. Quindi io sono sempre stato autofinanziarsi, insomma, quindi guardi, diventa prigioniero di chi con lo finanzia. Con le indennità o gli stipendi, chiami come vuole, cioè, i consiglieri riescono comunque ad affrontare questa avventura. Senta, nel suo regno a Treviso, Renzi, malgrado le critiche, è stato sommerso dagli applausi degli imprenditori. Si sta impadronendo del suo elettorato? In radio non si vede uno che sorride, no? No, sta sorridendo, lo confermo. No, guardi, io ho sentito applaudire Letta, ho sentito applaudire Monti, ho sentito applaudire Berlusconi, applaudiranno anche il prossimo. Ah sì, eh? Sì. Ma non era, nell'applausometro non aveva più applausi lui? Ma no, guardi, penso che sia gente educata. Ma noi siamo molto ospitali, oltretutto. Senta, ma dopo 8 anni di crisi il modello Nord-Est come ne esce? Ne esce con un modello che non è fordista, quindi è un modello del distretto industriale diffuso, della piccola e media impresa, molto flessibile, e noi ne usciremo sicuramente più tonici, anche perché in questi anni abbiamo saputo guardare dentro le nostre aziende e ristrutturare. Senta, Presidente Zaia, oggi in Veneto esiste quasi una Confindustria cinese, tra 20 anni il Veneto sarà una colonia cinese, eh? Il mio problema non sono i cinesi, il problema è che rispettino le regole e paghino però le tasse. Però è vero che c'è una Confindustria cinese, no. Adesso esagero, ma una forte componente, crescente. Noi abbiamo 517.000 migranti in Veneto su 5 milioni di abitanti, molti fanno gli imprenditori. 10%, sì. Sì, poco più del 10%. Ben venga chi fa impresa, chi rispetta le regole e chi si comporta correttamente. Senta, Presidente Zaia, è giusto impedire alle grandi navi da crociera di passare nella laguna di Venezia? Allora, è giusto impedire alle grandi navi di non passare nel bacino San Marco nel canale della Giudecca, punto. Cioè, mi faccia capire, sì, perché possono passare o no? Ma guardi, questa è la grande confusione che tutti fanno. Il decreto prevede che non passino più nel bacino San Marco nel canale della Giudecca. Lei ha detto laguna. La laguna vuol dire tutta l'area lagunare dove entra anche il Marghera. Quindi fuori. Cioè vuol dire restare in mare. Quindi in mare sì, dentro la città no. Detto per capirci. È un errore questo. No, è com'è allora? Allora quella foto di Toscani, no? Chi l'ha fatta? Allora, quello lì è Canale della Giudecca e Bacino San Marco. No. La laguna è un'altra roba. La laguna è un grande catino nel quale entrano anche le petroliere che vanno a Marghera. Qualcuno le vuole anche fuori dalla laguna. Che vuol dire lasciarle in mare? Vuol dire darle a Trieste o qualcun altro. Senta, ha ragione chi la vede come il capo della rivolta delle banche popolari del Veneto contro la riforma voluta dal governo? Ma guardi, io penso che questa riforma doveva garantire un soft landing, un atterraggio morbido. Però altrettanto lo vero sta facendo o no? Beh, oggi ormai è inevitabile la quotazione per le due banche. Noi abbiamo due banche, Popolare di Vicenza e Veneto Bank, 205.000 soci e ovviamente grossa difficoltà. Ma questa legge? Beh, oggi la legge impone la trasformazione in SPA e quindi inevitabilmente la quotazione. Con la quotazione si formerà un prezzo di mercato. Il vero tema Lei è d'accordo o no? Beh, oggi sono d'accordo sul fatto che debbano essere quotate perché non c'è via d'uscita, perché il prezzo di mercato si forma solo sul mercato. E per l'economia del Veneto sarà un bene o no? per l'economia del Veneto sarà un bene quando avremo ancora una banca di riferimento veneta. Prima ce l'avevamo con queste due popolari e le banche di credito cooperativo, che sono quelle banche che Obama definiva mutualistiche. Se le banche se ne vanno dal Veneto, le nostre 600.000 imprese avranno più di qualche difficoltà. E lei teme che se ne vadano? Beh sì, si può fare shopping, di fatto la quotazione diventerà un outlet. Certo. Senta Presidente, Presidente Zai, un'ultima domanda. Prego. Una volta lei, rivolgendosi al Presidente Ciampi, ha detto: si ricordi Presidente che il Nord ne ha le palle piene. Oggi Mattarella cosa vorrebbe dire? Si ricordi Presidente che il Nord ne ha le palle piene. Grazie. Grazie a voi. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS è pubblicità. Mix 24. Tanti sms, tante persone ci hanno scritto, soprattutto per sulla sanità. Uno per tutti, Alessandra, nessuno. Come fa Zai a costare, come dice lui, un pasto 6 euro in Veneto, altrove così. 80, però in effetti è certificato negli ospedali. Però c'è un altro che dice, Andrea Di Rovigo dice: invito Zaia per provare quello che sostiene a mangiare per una settimana la mensa dell'ospedale. Ma cioè dice vabbè, sarà 6 euro, ma non è fantastico. Insomma, si parla molto della sanità, perché effettivamente la sanità in Veneto è qualcosa di speciale. Posso dire, c'è un range tra 7 e 35 euro su un pasto in ospedale. Infatti. 6-7 euro è il costo di un'amministrazione virtuosa. È vergognoso che si paghino 35 euro per un pasto in ospedale. Pensate. Titolo il faccia a faccia, Mario. Ah, io ce l'ho, è fantastico. Non sta sereno, è serenissimo. Pietrangelo? Più che un titolo, un appello. Presentiamo gli Marchini. È vero, giusto. Per canzone. Ritornerai. Lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me, ritroverai le stesse cose che... Almeno qui Battiato si esprime, quando va in televisione fa fatica. Sì. Pietrangelo, fai qualcosa. Pietrangelo, dai. È franco però, tu che sei amico. Qui noi lo adoriamo quando canta. È sublime. Che nulla è cambiato. Vabbè, senza commento questa. È perché ciò che manca è il ricordo. Siccome stamattina era tutto un silenzio, era un'apnea al petto, un tuffo, ecco, era un vero e proprio tuffo, dunque era il ritorno, ed è una magnifica pagina di poesia di Bruno Lauzi, ed è il ritorno, ritornerai. Non potrai lasciarmi più. Ma Mario, sulla bolla cattiva? Sì, no, stavo pensando che non ritornano, però non tornano mai. Sta canzone è tremenda, perché ritornerai. Ritornano. Non tornano mai. Tornano. No, non tornano. Beh, sono esperienze diverse, si vede. Ci vuole sta canzone, guarda, sta musica meravigliosa. Sentiamola un po', dai. Bill Conti. Allora, Giovanni, qua più che cattiva è rassegnata, non so che dire. L'hanno già lasciato solo. François Hollande ha chiesto poteri straordinari, modifiche costituzionali. È un capo di Stato in guerra perché gli hanno dichiarato guerra. È in campagna elettorale. È in campagna elettorale per il 2017. Te ha chiesto ai suoi colleghi europei di impegnarsi. Hanno detto, vedremo. No, praticamente no, non ci interessa così. Allora, secondo me questa è ignavia. E insomma, qua gli unici che possono dargli girone una mano. Girone dell'inferno, gli ignavia, quale girone era, Pietrangelo? Gli ignavi, no? Stavano là, Dante li mise là. Allora, a un certo punto, secondo me, l'unico che forse gli darà una mano è Cameron. Che però, attenzione, ha la sterlina e non ha l'euro. Quindi qua, secondo me, rientra in gioco tutta l'architettura dell'Europa. È un film già visto in Europa, negli anni 30, no? La sindrome di Monaco e così via. poi c'è un capitolo che secondo me è anche un po' imbarazzante, devo dire, per le cronache che ho letto oggi, se sono vere è imbarazzante, addirittura di una spaccatura tra Renzi e Pinotti. E Renzi cosa fa? L'italiano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Chi c'è, papà? Chi hai? Ora arriva l'acqua, leggi il tuo giornale. Chi hai? Ah, mamma, sai come si sta lanciando Michael? La mattina ne mettono un filo in chi mi vede chiedo tutto roggiato e da intra ne lavamo colo, facci, denti e magari capiti. Poi assistai acqua, la pigliamo e ci calamo pasta. E bene sbona spatti con d'acqua lotta. E che ciao, farà suscitare magari morte Michael. Erano Don Vito e Michael Corleone, reinterpretati, devo dire, reinterpretati molto bene, che parlavano dell'acqua di Messina. Prima o poi torna, e infatti l'acqua a Messina è tornata, ma la notizia purtroppo è un'altra. L'acqua è tornata, ma non si può bere. Angelo, lascia a te qualche commento su questo fatto. Evidentemente si contraddice il proverbio siciliano che dice «ogni acqua leva sete». Questa sete non si toglie, è incredibile quello che succede, anche perché sono passati non una settimana, non due, ma quasi tre settimane, e questo dopo più di 2000 anni dall'invenzione degli acquedotti. Hai capito? E infatti i lavori per la messa in sicurezza dovrebbero iniziare proprio oggi, ma c'è qualcuno che parla già di soluzione tampone. Ecco, il quindi problema permanente. Sembra essere... una conduttura obsoleta, non adatta alla città. Tu che ne dici, Pietrangelo? Io dico che c'è l'abitudine a sopportare tutto, tutto. Perfino l'idea che nel 2015 non si possa avere l'acqua potabile, che non funzionino le condutture. Vorrei ricordare che giusto l'altro ieri la famosa bretella promessa da Graziano Del Rio l'hanno realizzata, e l'inaugurazione che ha visto mobilitato lo stesso ministro, ovviamente il presidente della regione, ahimè, Rosario Crocetti, il capo della protezione civile. L'inaugurazione se la sono dovuta fare in prefettura per non essere sommerse da frischi e pireti, ovvero sia... insomma, fischi e pernacchie. Beh, nel caso Messina dovesse tornare ad avere problemi con l'acqua, forse Crozza ha trovato una soluzione. A Messina l'acqua non arriva giallastra, magari arrivasse gialla, rossa e verde, la berrebbero anche a Poix. A Messina l'acqua non arriva proprio. Tre settimane fa si è rotta la conduttura dell'acqua, l'hanno aggiustata, ma si è rotta di nuovo. È passato quasi un mese e siamo ancora messi così. Pensate che in Namibia hanno iniziato una raccolta fondi. Namibia for Messina. Namibia for Messina. Beh, una bolla, Mario. Vai. Sì, viaggiare evitando le buche più dure. Ma oggi è una giornata di classici, sì. No? Dopo Battiato con Lauzi, abbiamo Battisti, viaggiare. Non potevi sbilanciarti troppo. Allora, ci sono due notizie che sono interessanti sul clima di fiducia nella ripresa economica. La prima è che EasyJet, che è un vettore importante europeo, ha ordinato altri 38 Airbus A320. Sì. E l'altra, che è una notizione di ieri, che ovviamente è stato molto oscurato da, ancora, dagli eventi di Parigi, eccetera, ma è una notizia enorme. Cioè Marriott ha comprato Starwood, e parliamo quindi della costituzione del più grande gruppo alberghiero del mondo per 12 miliardi di dollari. Sono due indicatori molto interessanti, ovviamente, sul fronte della ripresa. Parliamo, attenzione però, di aziende che lavorano sul piano globale, certo. E quindi questa fiducia, queste prospettive non riguardano per forza anche quelle del nostro paese, dove la crescita è ancora, secondo me, debole. Salamino. Mafia capitale. Oggi si decide sulle parti civili. Il processo si trasferisce nell'aula bunker di Re Bibbia. Le udienze sono calendarizzate fino a luglio e sono però, come dire, uno spettacolo. Però Franco Testa, Salvatore Buzzi e soprattutto Massimo Carminati non saranno fisicamente presenti, ma collegati in videoconferenza. La decisione risponde alla necessità di fare fronte alla conclamata pericolosità degli imputati, soprattutto Carminati, detto Ercecato, sul quale in un primo momento si era pensato di trovare una soluzione. Sai, Mario, era, cos'era? Era l'imbracatura tipo Hannibal Lecter. Di pelle. Ma poi si è voluto desistere per l'inaudita capacità criminale dell'imputato. Niente a che vedere rispetto alla mezza mafia dei Luciano Liggio, dei Michele Papa, dei Binnu Provenzano detto Uciatturi, nonché i Totò Riina detto Ucurtu, tutta gente da circolo degli scacchi capaci di manovrare tritolo, Kalashnikov, acido, quello che serve per sciogliere le vittime, e però sempre presenti ai processi, ai maxi processi, e ben in vista nelle gabbie degli imputati. Mafiosetti questi, non pericolosi, non è che sono come Carminati sul cui camino, sulla cappa, è stata trovata un'arma pericolosissima, sequestrata e analizzata dagli esperti di antiterrorismo, niente meno che uno sfiletta tonno. Post scriptum, e qui ci vuole una sigla. Addirittura. Sì, perché pare che Spectre, il nuovo 007, sia una boiata pazzesca. No. 3 minuti 3 di Monica Bellucci sono risultati sprecati. La mamma di Monica Bellucci. Non so chi sia, comunque sprecati. È stato girato a Roma, ma purtroppo James Bond non ha preso a canone Mafia Capitale. Avesse avuto un editing della procura in un opla, il male avrebbe fatto la sua porca figura e accanto a James Bond sarebbe arrivato il killer dei killer, Spezzapollici. Il numero verde 349-238-6666, l'SMS. Le azioni dell'Iran hanno sconvolto il mondo civile. Via! Eliminate tutto! La nostra ambasciata è stata presa e più di 60 cittadini americani continuano a essere tenuti in ostaggio. Se vogliamo andare, dobbiamo andare ora. Che è successo? 6 degli ostaggi sono usciti da una porta sul retro. E dove sono? A casa dell'ambasciatore canadese. Le guardie della rivoluzione vanno porta a porta. Se quella gente muore, muore male. E Argo, un grande film che rievoca la più grave crisi diplomatica tra Iran e Stati Uniti. 444 giorni, 52 ostaggi, 2 presidenti americani, prima Carter, poi Reagan, per uno dei più tragici fallimenti dell'intelligence americana. Il 4 novembre del 79 l'ambasciata americana a Teheran viene occupata e i suoi dipendenti diventano ostaggi. Un giallo che tiene il mondo intero col fiato sospeso. 444 giorni, colpi di scena, intrighi internazionali, protagonisti, qui a Mix 24, per il giallo della storia, dopo il giornale radio. Mix 24. Canzoniere. Anch'io tra i morti vi saluto. Rosso, alabardati, sputati dalla terra natia, da tutto un popolo, amati. 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, SMS, speriamo che qualcuno indovini. Ultima bolla, Mario. Vai. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta. La verità funziona. Madonna. La verità chiarifica, penetra e cattura. È il diavolo che parla, no? Lo spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. Bene, io sono un po' per l'avidità, perché l'avidità alla fine fa bene, mentre quello che non fa bene è l'egoismo e la cecità, quella che si sta, secondo me, palesando davanti ai nostri occhi con la questione del dopo Parigi. Segnalo che David Cameron, visto che continuiamo sulla scia di questo, ed è importante dare queste notizie, ha autorizzato 2 miliardi di sterline di extra spending militare per acquistare droni, addestrare forze speciali e allestire nuovi commercianti, di armi. No, si prepara alla guerra, a fare quello che fanno i capi di Stato nei momenti di svolta della storia. A fare la guerra, sì. Difendere i propri confini. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste più importanti del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. The Lancet, 24 ottobre 2015. Un intervento via internet per migliorare la sindrome influenzale e respiratoria. Cioè, professore, mi spiega bene. Ma qualcuno si meraviglierà. Avrete tutti visto che c'è qualcuno che ha un vero e proprio fanatismo e si lava le mani 1000 volte al giorno. Però il lavaggio delle mani da sempre si è ritenuto un presidio dell'igiene. Chi ha le mani pulite certamente è meglio di chi ha le mani sporche. Allora, questi ricercatori hanno voluto vedere in modo scientifico, e quindi quantificandolo, se lavarsi le mani attraverso uno stimolo costante via web, il web che ricorda ora per ora te le sei lavate, come te le sei lavate, le tieni in ordine, eccetera, se questa roba diminuisce l'influenza e tutti i problemi respiratori che l'influenza normalmente porta con sé. Allora, dal 2011 al 2013 si sono viste 20.000 persone, sono state seguite 10.000 con l'ausilio via internet, se si lavano le mani, e 10.000 invece vengono lasciate alla normale vita di tutti i giorni. Naturalmente questo veniva fatto durante i mesi invernali, quando il picco influenzale è quello maggiore. Bene, allora è successo che quelli che si lavavano le mani non in modo compulsorio, non in modo maniacale, ma chi se le lavava le mani secondo i dettami suggeriti da internet, avevano significativamente meno sindrome influenzale. La scoperta dell'acqua calda? Beh, forse sì, però poi quando le cose però sono dimostrate scientificamente, quindi ci danno un aiuto in più. Quindi lavatevi le mani e avrete meno influenza. Assolutamente così.